Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Homage to the Buddha, the Blessed Noble, and fully self-enlightened. Omaggio al Buddha, al Beato, al Nobile e al pienamente illuminato, auto-illuminato. Maybe there were one or two questions left over from the previous questions. You want to ask about the actual practice? C'erano forse ancora un paio di domande che sono rimaste senza una risposta nella precedente sessione, diciamo. Volete porle adesso? Do you count that as one breath or two separate breaths? Quindi chiede l'inspirazione e l'espirazione, se sono contati un respiro o due respiri. Oh, well, conventionally it's just one breath. Convenzionalmente è solo un respiro. So if that is one breath, the in breath is a half breath. E quindi se quello è un respiro, la inspirazione corrisponde a mezzo respiro. If I could just elaborate on why I was asking, because when we talk about following the beginning, middle and end of the breath, we mean each section independently. It's not like beginning. Middle is the top point where the in-breath ends, and then the end is the out-breath. Sì, perché nelle istruzioni si parlava del osservare il respiro all'inizio, nella parte mediana e alla fine. Allora Gautam giustamente dice, beh, allora se si tratta di un segmento, allora è una cosa, se si tratta di tutto il respiro, allora l'inizio è l'inizio dell'inspirazione, la parte mediana è la fine dell'inspirazione e la parte finale è la fine della espirazione. Yeah, this is a confusion that comes from the commentaries. Questo è un punto di confusione, diciamo, che deriva dai commentari. They talk about the middle, the beginning and the middle and the end of the in-breath, and the beginning, the middle and the end of the out-breath. Perché lì si parla dell'inizio, parte mediana e finale dell'inspirazione, e poi lo stesso della espirazione. Mm. So, by the beginning, they mean the absolute point where the in-breath begins. Quindi per l'inizio intendono proprio il punto in cui l'inspirazione comincia. Mm. And by the middle, and by the end they mean the exact point where the in-breath ends. E quindi per la fine intendono proprio il punto in cui la inspirazione termina. The middle is the whole bit in between. E la parte mediana, il mezzo, diciamo, è tutta quella parte intermedia. It's not a point in the middle, eh? Ma non è quindi un punto nel mezzo. Yeah. That would, I don't know how long that would take you to find. Che non so quanto ci vorrebbe a trovarlo. You have to get your ruler out. Dovresti tirare fuori il righello. So, it's just that in the Buddhist, in the Buddha's understanding, the process of impermanence is a moment where something appears and disappears. Quindi, nella comprensione del Buddha, quindi per impermanenza si intende quel momento in cui qualcosa appare e scompare, appare e scompare. And one of the arguments in early Buddhism was, when it appeared, did it really exist or not exist? E una delle discussioni ai tempi del Buddha era di dire, ma quando una cosa appare, è realmente esistita oppure no? And the school that said it did really exist was known as the Sarvastivadi. Il Sarvastivadi era quella scuola di pensiero che affermava che effettivamente il fenomeno esisteva. This means Sarvasta means everything exists. Sarvasta significa proprio tutto esiste. The Theravada school did not believe that. Invece la scuola Theravada non lo credeva. The importance of this is that We only have two sets of early scriptures. La cosa importante di tutto ciò è che noi abbiamo solo due insiemi di scritture, come dire, antiche, originali. The first is the Theravada scriptures that we have in, you know, Thailand, Burma, Sri Lanka. La prima serie di scritture sono quelle Theravada che abbiamo in Birmania, Thailandia, nel sud-est asiatico. And the Sarvastivadin only exists in the Chinese. Invece le scritture Sarvastivadin sono solo cinesi. This is completely unimportant to your practice. Tutto questo è completamente assolutamente non importante nella sua pratica. But interesting. Ma interessante. Can you give some examples to attitudes of thought? Puoi dare degli esempi riguardo all'atteggiamenti, attitudes towards thoughts? No. So when the thought arises, we have to label it. Sì, quindi quando sorge un pensiero, quindi come etichettare l'atteggiamento, l'attitudine legato a quel pensiero. Yeah. So, the mind and the heart, our thought life and our emotional life are intimately connected. Quindi la mente e il cuore, cioè la nostra vita mentale o emotiva, sono strettamente correlate. So that if the mind moves with a memory, then the heart responds with its feeling memory. Per cui se la mente si muove con un ricordo, per esempio, allora il cuore si muove con una sensazione legata a quel ricordo. So, sometimes the heart moves with an emotion and seeks an object. Allora a volte il cuore si muove con un'emozione e cerca un oggetto. So it finds something to worry about, complain about, get excited about. E quindi cerca qualcosa di cui preoccuparsi, di cui lamentarsi o di cui eccitarsi. So usually when you're sitting meditation, the movement is coming from our emotional base. Quindi di solito nella meditazione seduta il movimento nasce dalla nostra base emotiva. So when you see a train of thoughts, then you have to recognize what the attitude is, the emotion that is driving it. Quando vedete una serie di pensieri, una concatenazione di pensieri, dovete capire cos'è la forza motrice, cos'è che lo fa andare avanti, cosa lo produce. So, as soon as you see a thought, as soon as you come out of a train of thought, you might say worrying. Appena uscite da questa catena di pensieri potreste dire per esempio preoccupazione. So then you're looking for the feeling of anxiety, you see. Quindi state osservando questa sensazione di ansia. So here you find worrying here, you see. Quindi qui nella zona del cuore troverete preoccupazione. And you would stay feeling it, experiencing it until it faded away. E rimanete lì e cercate veramente di sentirla, di esperirla fino a quando non scompare. Io ho una domanda che non è della pratica, però è un dubbio che mi porto dietro da tempo. Mi chiedevo, questi testi in Pali immagino che sono, come mai è così importante recitare in un'altra lingua, non si potrebbe fare in italiano? Who's wondering why we chant in the Pali language and not in Italian? Why is it so important? It's not important in itself. Non ha importanza di per sé. But it's like it connects you with 2,500 years of history. È un collegamento, ti connette con 2,500 anni di storia. The language that the Pali is the language the Buddha spoke. Perché questa lingua Pali è la lingua che parlava il Buddha. And so there's a sort of connection historically. Ma c'è una specie di connessione storica. And for those who are more devotional types, this becomes a way of expressing gratitude and of developing a sense of awe towards the Buddha. Quindi per le persone più devozionali questo è un esprime un senso di gratitudine o di ammirazione nei confronti del Buddha. Admiration. And it's also it just connects us with a 2500 year old tradition. E ci connette con una tradizione lunga 2500 anni. So you find now in eastern countries, Thailand mainly, that they chant both in Pali and in Thai. Quindi vedrai che nelle tradizioni, nei paesi orientali, soprattutto in Thailandia, che recitano sia in Pali che in thailandese. In on the Thai forest monks at Amaravati, they also chant sometimes in Pali, sometimes in English. Il monastero di Amaravati, della tradizione della foresta, loro recitano a volte in Pali, a volte in inglese. I don't chant in English because I don't have a good tune. Io non recito in inglese perché non sono molto intonato. No, I don't have a good tune for it. For the English. Yeah, for the English. Cioè, non ha un buono, come dire, una buona tonalità per la recitazione in inglese. La musica. La musicalità. I'm looking for a composer. Sto cercando un compositore. There was a lady back there that had a question earlier. Thank you, Sharon. Sì. Io volevo chiedere, allora io impiego molto tempo a entrare nella meditazione, cioè minimo 3 ore per entrare in meditazione. Come se dovessi camminare, come se dovessi percorrere la cima di un mondo. It takes a long time to get into meditation, like 3 hours, as if you had to walk to the top of a hill. Però una volta che sono arrivata lì vorrei sapere come starci. Cioè io adesso domani rientrerò a casa e perderò tutto questo vantaggio, quasi improvvisamente. So once she gets there, she's asking how does she stay? Because tomorrow she's leaving, so she's afraid that she'll lose all of this, she calls it this advantage, this achievement that she got. When you say to get into the meditation, do you mean to be well concentrated? Quando dici entrare nella meditazione, intendi essere ben concentrata? Centrata? Centrata. Centered, she says. Does that mean that you are not, that you are generally speaking attentive to what is happening? Quindi questo significa che tu sei attenta a ciò che sta succedendo. Or does it mean that you are in contact with yourself? O significa che sei in contatto con te stessa. She's more in touch with herself. She feels more centered. You can't maintain that completely in daily life. Questo è una cosa che non riuscirai a mantenere completamente nella vita quotidiana. Because your attention has to also be outside. Perché la tua attenzione è anche diretta verso l'esterno. So if you're working on something which demands your concentration, then in a sense that's where all your awareness is. Se tu stai lavorando su qualcosa che richiede tutta la tua concentrazione, beh, la tua consapevolezza andrà lì. When you finish the work, you can then stop and center yourself. Quando finisci quel lavoro, allora puoi fermarti e centrarti, trovare la tua centratura. This is what I meant last night when we were doing the standing meditation. Era questo che intendevo ieri sera quando abbiamo fatto la meditazione in piedi. To be able to keep stopping all the time. Questo riuscire a fermarsi continuamente. And to turn inward. Rivolgersi verso l'interno. Wait for the next intention. Aspettare la prossima intenzione. If the intention is good, we do it. If it's not so good, we wait for the energy to download. E se l'intenzione è buona, allora facciamo l'azione, altrimenti aspettiamo che questa energia si dissolva. Sì? No. It's just another habit. È solo un'altra abitudine. It's just another way of conditioning ourselves, but to make ourselves happy. È un altro modo di condizionare noi stessi, ma al fine di essere più felici. Remember, every time you repeat an action, you're reinforcing that habit, you see. Ricordate che ogni volta che ripetete un'azione state rinforzando quell'abitudine. So when we see something we're doing which is not good for us or good for anybody else, when we get that feeling of wanting to do it, stay very still, you see. Quindi quando vediamo che stiamo per compiere un'azione che non è buona né per noi né per gli altri, allora possiamo anche stare molto fermi e non agire. Wait, you see. That's what we're learning how to wait when we sit. E quindi attendiamo, aspettiamo, è proprio quello che stiamo imparando, a stare seduti in attesa. And just wait for it to die away. Quindi aspettare che questo in qualche modo muoia. Does she feel I've answered the question? Senti che ha risposto alla tua domanda? Sì. Prima ha accennato all'equanimità. Volevo sapere qualcosa di più. C'è già scritto su tanti libri dell'equanimità, però ti può dire una cosa di più? You mentioned equanimity, the quality of equanimity. He's read it many times in books, but can you say something more about it? Equanimity in the Buddha's teaching is the greatest of all virtues. Negli insegnamenti del Buddha, l'equanimità è la più grande di tutte le virtù. Meister Eckhart, a 13th century mystic, German mystic, whom some of you might know, Maestro Eckhart, il mistico tedesco che alcuni di voi forse conoscono, del XIII secolo. He said love was not the greatest virtue, he said equanimity was. Allora, lui disse che non è l'amore la virtù più grande, ma è l'equanimità. So he must have been a reborn Buddhist. Quindi probabilmente era un buddista. Non so come si dice in italiano. Reincarnato. Sì. Equanimity is it manifests in the heart as a sense of calmness. Quindi l'equanimità si manifesta nel cuore come un senso di calma. It's not an agitation. Non è una agitazione. But it's the qualities you expect of a judge. Sono le qualità che uno si aspetterebbe da un giudice. You don't expect the judge to follow the demands of the crowd, hanging. Non vi aspettereste che un giudice segua le richieste della folla, impiccatelo. You don't expect him to follow the emotions of the mob. Non vi aspettereste che un giudice segua le emozioni della massa, insomma, della... And you don't expect him to be fooled by the clever arguments of lawyers. E non vi aspettereste che un giudice sia ingannato da queste argomentazioni astute, argute degli avvocati. So it's a position of being aloof. E quindi è una posizione di essere al di sopra di tutto, sollevati. Yeah. And yet completely open-minded and open-hearted. Allo stesso tempo completamente con la mente aperta e col cuore aperto. So you cannot come from a position of prejudice. Quindi non si può partire da una posizione di pregiudizio. Or from greed. O dalla brama, l'avidità. Or from aversion. O dall'avversione. Or from fear. O paura. So you can see it's a very, very difficult quality to manifest. E quindi, come vedi, è una qualità che si manifesta con molta difficoltà. Now it is one of the factors of enlightenment. È uno dei fattori di illuminazione. So we had better develop it. Quindi faremmo bene a svilupparlo. Only when the mind is in equanimity, only we have equanimity, can we investigate what the Buddha's teaching you say. Solo quando c'è l'equanimità nella mente siamo in grado di investigare gli insegnamenti del Buddha. We expect scientists to come from such a position. E noi ci aspettiamo che gli scienziati partano per le loro ricerche da questa posizione. But they don't. Ma invece non è così. They also have a philosophy and a view that they want to prove. Anche loro hanno una filosofia, un modo di vedere che vogliono dimostrare. Whether it's intelligent design, che sia un come si dice? Intelligent design. Un progetto, un disegno intelligente. Yeah. Instead of a personal god, everything has intelligent design. Cioè piuttosto che un dio personale, come se tutto il mondo fosse guidato da questo disegno intelligente. Progetto intelligente. Or whether they are scientific materialists, you see? Oppure che siano degli scienziati materialisti. So their experiments prove what they know, prove what they believe. E quindi i loro esperimenti dimostrano quello che loro, in cui loro credono. So don't believe everything science tells us. Non credete a tutto ciò che la scienza ci dice. Anything else? C'è qualcos'altro? Okay, so this evening what I want to do is make sure that, especially for new people, that they're clear about what the Vipassana is. Stasera vorrei che fosse chiaro, almeno per le persone nuove alla pratica, riguardo che cos'è la Vipassana. And just to talk a little bit about these techniques so that we know why we're doing them. E quindi parlare un pochino, insomma, di più riguardo a queste tecniche e perché le stiamo facendo. So people come to meditation for various reasons. Le persone si avvicinano alla meditazione per vari motivi. It can even be for physical reasons, to be cured of an illness. Potrebbe anche essere un motivo fisico per curarsi da una malattia fisica. And many come because, you know, they are emotionally upset. Molti arrivano a meditazione perché sono, come dire, disturbati emotivamente. Or they're going through a hard time in life and they think meditation will help them. Stanno attraversando un momento difficile nella vita e pensano che la meditazione li possa aiutare. Or they come because they're just interested. They've read a book and they're interested to find out. Oppure ci arrivano perché sono semplicemente interessati, hanno letto un libro e vogliono capire di cosa si tratta. And so there are various reasons why people begin to become interested in meditation. Ci sono vari motivi secondo i quali le persone si avvicinano alla meditazione, si interessano alla meditazione. However we enter into the meditational process, it limits us as to what the meditation can give us. So according to how we enter it, this how we quindi a seconda di come noi entriamo in questo processo meditativo, questo limiterà in qualche modo o determinerà la nostra pratica. So if I come to meditation because I'm having lots of headaches, then I will be searching, I will be hoping that my practice will get rid of my headaches. Per esempio, se io comincio a praticare perché ho dei forti mal di testa, allora io cercherò attraverso la pratica di superare questo problema dei mal di testa. If I come because of emotional disturbance, difficult relationships, then that's why I'm practicing. Se io ci entro perché ho delle difficoltà emotive o relazionali, allora questo sarà il motivo per cui pratico. So that there's a confusion about what Vipassana is, you see. Quindi c'è una sorta di confusione riguardo a che cosa sia veramente la Vipassana. The fact is that when we do practice Vipassana in its purity, sometimes physical illnesses do disappear. fatto è che quando noi pratichiamo la Vipassana nella sua purezza, gli disturbi fisici effettivamente spariscono. But that's because usually it's been caused by an emotional state. Ma questo perché di solito questi disturbi fisici sono causati da uno stato emotivo. I mean, for instance, if your headaches are caused by stress, if you get rid of the stress, the headaches should stop. Eh? Per esempio, se i mal di testa derivano dallo stress, se uno si libera dallo stress, allora spariscono anche i mal di testa. In the Mahasi Center, when he started teaching, they now have a big book of people who were cured of little illnesses and even major ones. Nel centro di Mahasi c'è un libro dove vengono riportati proprio dei casi di meditanti che attraverso la pratica hanno superato dei disturbi fisici piccoli ma anche abbastanza importanti. I used to have a copy and gave it to somebody in the early days of turning it into a document. Ne avevo una copia e l'ho dato a una persona tempo fa perché ne facesse un documento. And I gave it to him on trust. E gliel'ho dato perché mi fidavo. It was very foolish, he disappeared. È stata una cosa molto sciocca perché è sparito. Never lend anything. Non prestate mai nulla. But I believe you can get it on the website. I haven't tried. So. Ma credo che possiate trovarlo sul web. Is it Dhamma Therapy? Is that right? It's come out in the new edition. That's it. No, if that's the one you're talking about. No, I think it's the same. Yeah, must be. It's called Dhamma Therapy. Dhamma. No. And of course, to sit like this with our emotions can often help us to heal our problems. E ovviamente stare seduti così con le nostre emozioni può aiutarci a guarire dai nostri problemi. So now we have, you know, mindfulness and stress reduction, mindfulness and depression, mindfulness and panic. E adesso abbiamo questi approcci di mindfulness e riduzione dello stress, o mindfulness e depressione, mindfulness e panico. And they're very successful. E hanno molto successo. But when we enter the practice with these aims, these objectives, then yes, we might get the benefit, but we lose out on the real gift. E quando entriamo nella pratica con questo obiettivo, con questa aspettativa, sì, potremmo avere dei benefici, però è come se ci perdessimo il vero dono. It's like digging for precious stones, which you find, but you leave the diamond. È come scavare, cercare delle pietre preziose che si trovano effettivamente, però poi lasciamo lì il diamante. So now we have to go back to the Buddha's teaching itself. Quindi adesso dobbiamo tornare agli insegnamenti del Buddha stesso. These days you'll find people saying that Buddhism is not a religion. Oggigiorno troverete delle persone che vi dicono che il buddismo non è una religione. And it's usually coming from the Judeo-Christian Islamic background. E questo di solito viene da persone che appartengono a un background cristiano giudaico. Or did you say Islamico. Because sì, because they believe in a personal God. Perché queste persone credono in un Dio personale. From a Buddhist point of view, a personal God is only a projection of the self onto the universe. Da un punto di vista buddista, questo un Dio personale è solo una proiezione del proprio io nell'universo. And there are others who say that it's not a religion because it's an ethical psychology. Altri dicono che non è una religione perché è una psicologia etica. And that's why it attracts, scientific materialists. Ed è per questo che attira gli scienziati materialisti. It gives them some sort of perhaps a feeling of a deeper grounding than just humanism. Dà un senso di radicamento più profondo rispetto all'umanesimo. Or perhaps a psychological base. Oh, meglio, gli dà una base psicologica. But when we look at the word religion, it comes from the Latin, which means to tie back. Se guardiamo la parola religione, questo viene dal latino e significa legare indietro, lo spiegherà meglio. Yeah, to tie back. In other words, we are like a ship lost in the ocean and it somehow has to find its way back to port. In altre parole è come se fossimo una nave, una barca persa nell'oceano che deve trovare il modo di tornare nel porto. Mm. And once it's there, it ties itself to the dock. E una volta che si trova nel porto, allora deve legarsi lì, nella banchina, nel molo. Mm. So, when the Buddha talks about the end of suffering, he also talked about it as a specific experience. Quindi quando il Buddha parla della fine della sofferenza, ne parla come di una esperienza specifica. Mm. And this experience he calls Nibbana. Questa esperienza la chiama Nibbana. Now Nibbana can be translated in various ways, depending on what you think the word is made up of. Nibbana può essere tradotto in vari modi, a seconda di come uno crede che sia composta la parola. But the one that most people generally agree that it means is, first of all, no desire. Ma quello che, su cui la maggior parte delle persone concordano è che significa un non desiderio. And not tied to something. È il fatto di non essere legati a qualcosa. Released or what's the word? Forgot the word they use now. Yes, untied, untangled. Quindi sciolti, non legati, non aggrappati a qualcosa. Mm. So, and he talks about this state as being an island. E il Buddha parla di questo stato come se fosse di un'isola. Mm. An island is something separate from the mainland. L'isola è una cosa separata dalla terraferma. He says that it's not born, it doesn't die. Dice che è una cosa che non nasce, non muore. So it's not conditioned. Non è condizionato. He sometimes gives it positive understandings. E a volte ne parla in senso positivo. He says it's the highest happiness, it's home, it's where you are in a sort of total way. È la felicità più alta, è la propria casa, è il luogo in cui uno si trova, ma nel senso più elevato del termine. He talks about it as a sphere of a sphere. A volte ne parla come se fosse una sfera. Mm. So in his teaching there are six spheres of experience. Nei suoi insegnamenti ci sono sei sfere di esperienza. Mm. And these are the six senses. E questi sono i sei sensi. The five physical senses and the mind as a sense. I cinque sensi fisici e la mente, inteso come un senso. He says this is another sphere. E lui dice che questo, quindi il Nibbana, è un'altra sfera. And that is most obvious, he says that he himself had undermined, that he had got rid of all the defilements and had attained the unconditioned consciousness. E lui stesso dice che si era liberato di tutti gli inquinanti mentali e aveva raggiunto questa coscienza non condizionata. And he even makes a very clear statement twice in the scriptures. E due volte nelle scritture esprime pronuncia un'affermazione molto chiara. In which he says there is a consciousness. E allora dice c'è una coscienza. Which is not colored by any of the senses. Che non è tinta, non è colorata da alcun senso. Where there's no thought, emotion, sensation, no moon, no sun, etc. Dove non c'è nessun pensiero, nessuna emozione, non c'è luna, non c'è sole, eccetera. Where there's no boundary. Dove non ci sono confini. Mm. Boundary is created by phenomena. Eh? I confini sono creati dai fenomeni. And in all directions full of light. In tutte le direzioni è piena di luce. In other words, he also referred to himself as the Tathagata. e si riferì anche a se stesso come al Tathagata. And Tathagata means gone there, arrived at that place. E Tathagata significa colui che è andato lì, che è arrivato in quel luogo. Mm. And it's translated usually as transcendent. E di solito questo viene tradotto come trascendente. So, this quality of Nibbana is right here and now with us. Quindi questa qualità del Nibbana è proprio qui con noi, in questo momento. Mm. It is both right here in the present moment and it is transcendent of this present moment. È proprio qui nel momento presente, ma è anche trascendente da questo momento presente. Mm. The experience of that within us, which is the Buddha, is the purpose of our meditation. Quindi l'esperienza di ciò che è dentro di noi, cioè il Buddha, è proprio l'obiettivo della nostra meditazione. Through the process of investigation and the process of purifying our ethical actions. Quindi attraverso la qualità dell'investigazione e attraverso la purificazione etica delle nostre azioni. Mm-hmm. We are moving towards that awakening that we call Buddhahood. Noi ci stiamo avvicinando a quel risveglio che noi chiamiamo Buddhahood. La buddhità. La buddhità. So, this is the purpose for our meditation. This is the ultimate purpose. Quindi questo è lo scopo della nostra meditazione. Questo è lo scopo ultimo. Now, that is what you might call our final aim. Questo è ciò che potremmo chiamare la nostra meta finale. Mm. But in order to get there, we have to have certain objectives. Ma per arrivare lì dobbiamo avere degli obiettivi. Mm. It's like, for instance, an archer who fires an arrow at a target. Per esempio, immaginate un arciere che sta lanciando una freccia al bersaglio. Mm. He never aims the arrow directly at the bullseye. Non è che mira direttamente la freccia al centro del bersaglio. Ah, it's always up in the air. Mira sempre in alto, nell'aria. And he has to imagine the curve which takes the arrow into the target. Perché deve immaginare la curva che farà la freccia per arrivare all'obiettivo, al bersaglio. So, our aim, objective. Our objective is to make sure that the arrow is flying in the right direction and everything else will take care of itself. E quindi il nostro obiettivo è assicurarci che la nostra freccia stia andando nella direzione giusta e poi tutto il resto andrà da sé. And that's why the Buddha does not teach about Nibbana, he teaches about right awareness. Per questo Buddha non dà insegnamenti sul Nibbana, ma piuttosto sulla giusta consapevolezza. Ah. And right awareness means investigating the three characteristics of existence. E la retta consapevolezza significa investigare o esplorare le tre caratteristiche dell'esistenza. Which is this radical impermanence. Che sono questa impermanenza radicale. Eh? Everything is arising out of potential and disappearing into potential. Tutto sorge in virtù di un potenziale e sparisce in un potenziale. The process, the psychological process of desiring. Poi il processo psicologico del desiderare. And, la seconda caratteristica. And the investigation of identity. Who am I? La terza caratteristica è la ricerca, l'investigazione sulla identità. Chi sono? Sì. Cosa sono? Cosa sono? So, it is only by investigating these things that we will attain that final end. È solo investigando in questi tre ambiti, diciamo, che noi raggiungeremo quella meta finale. Mm. The first one, to see impermanence radically, means that we will let go of attachment to anything in the world. Quindi vedere l'impermanenza radicalmente significa che noi lasciamo andare l'attaccamento a qualsiasi cosa che esista al mondo. There is nothing in the world worth holding on to. Non esiste nulla al mondo che valga a cui valga la pena aggrapparci. No. valga la pena trattenere. These are the Buddha's words. Queste sono proprio le parole del Buddha. By seeing the role of desire, we are investigating all these emotional states. E invece osservando, esplorando il ruolo del desiderio, noi stiamo esplorando tutti questi stati emotivi. And we are purifying the heart of all its negative states. Stiamo purificando il cuore da tutti gli stati negativi. And developing the positive states. E stiamo sviluppando gli stati positivi. Ah. It's not as though we end the process like zombies. Non è che noi terminiamo questo processo e diventiamo degli zombie. Ah. No, we end it with a good heart. No, lo terminiamo con un buon cuore. And by investigating our identity. E quindi facendo questa investigazione nella nostra identità, we are cutting right down to the base problem of our suffering. Noi arriviamo proprio alla base della nostra sofferenza, alla radice. And this can be put in a very simple question. E questo può essere posto attraverso una domanda molto semplice. Yeah. Who dies? Chi è che muore? So, in order to develop this investigation, that's what all these systems of vipassana are asking, are there for. E quindi tutti questi sistemi di Vipassana esistono proprio per fare questo tipo di investigazione. So, whatever Vipassana system, Dzogchen system, Zen you come across, it's always to do with trying to investigate these three characteristics. Quindi qualunque sistema voi troviate, che sia Vipassana, Dzogchen o Zen, sono tutti mirati a investigare in questa direzione. And each one will tell you that they are the best. E ognuno di questi sistemi vi dirà che sono il migliore, che è il migliore. Unfortunately, whether it's the best or not is not important. Unfortunately. Well, we can say fortunately. Io ho detto sfortunatamente. Che siano quello giusto o meno, quello più importante o meno, che sia quello giusto o meno non ha importanza. Because it very much depends on the individual. Dipende molto dall'individuo. That's why there are so many systems. Ed è proprio per questo che ci sono tanti sistemi. And it depends on your connection with a teacher and an opportunity to practice. E dipende anche dal vostro contatto con un insegnante e la vostra possibilità di praticare. So now the Mahasi Sayadaw was asked to come and teach at a meditation center in Rangoon, Yangon. Mahasi Sayadaw è stato chiesto di venire a insegnare in un centro a Rangoon, Birmania. He already had a good reputation where he was living in Middle Burma. Aveva già una buona reputazione dove viveva nel mezzo della Birmania. Tra l'altro è lui, Sayadaw. Sì, quello. And as soon as he began, there was just great success. E appena iniziato ebbe già un enorme successo. He was one of the first teachers to actually begin teaching lay people how to meditate. Perché era uno dei primi insegnanti a insegnare ai laici a meditare. Before then, that was what monks did, and the lay people fed the monks. Prima di lui questo era un compito che avevano i monaci e i laici davano da mangiare ai monaci. So, there are three parts to his technique or method. Ci sono tre parti nella sua tecnica, nel suo metodo. The Mahasi was a scholar. He wrote many books. Era uno studioso, scrisse molti libri. He was the chief questioner at the great big meeting in 1956. Quindi al grande concilio buddista nel 1956, lui rappresentava il quello che pone le domande, come si può dire in italiano? Sarà un termine. He was the one who questioned the people who knew the scriptures. Era quello che poneva le domande alle persone che conoscevano le scritture. To make sure that the recitation was correct, that they had actually a correct a correct copy. cioè che si assicuravano che le recitazioni fossero corrette e che la coppia, diciamo, degli insegnamenti fosse effettivamente corretta, corrispondente a quelle antiche, diciamo. So when you compare the Sri Lankan scriptures with the Burmese and the Thais, there are just little differences. Quindi quando confrontate queste scritture dello Sri Lanka, quelle thailandese, quelle birmane, ci sono delle lievi differenze. So we can see that his mind was always thinking. E vedete che quindi la sua mente era sempre lì che pensava. So he began to develop this noting technique to stop the mind thinking. Quindi ha cominciato a sviluppare questa tecnica della nota mentale proprio per fermare la mente pensante. So that if the intellect is occupied with a simple concrete word, rising, falling, touching, etc. Così che se la mente è impegnata con una parola molto semplice, no? Per esempio salire, scendere, contatto e via di seguito. This intuitive awareness can begin to pull itself out of its confusion with the intellect. Questa intelligenza intuitiva può cominciare a venire fuori da questa trappola della mente pensante. Think again of the child's face, the child's mind. Ricordatevi quello che abbiamo detto del viso del bambino, no? La mente di un bambino. Which has not yet been polluted by wonderful conceptual thinking. Non è ancora stato inquinato da questo meraviglioso pensiero concettuale. So the first purpose of the noting is to bring the thinking mind to a stop. Quindi la prima funzione di questa nota mentale è far fermare la mente pensante. The second is to help the attention move towards the object. La seconda funzione è di aiutare l'intenzione ad avvicinarsi all'oggetto. So that it's like the Maharshi talked about throwing a stone at a bottle on a wall, you see. Maharshi faceva l'esempio del tirare una pietra a una bottiglia sul muretto. So your eye is on the bottle, you see, but the stone is what's actually making the strike, you see. Quindi l'occhio è sulla bottiglia, ma è la pietra che effettivamente sarà quello che la colpisce. So the word is actually pushing you towards the object. Quindi la parola, la nota mentale è quello che effettivamente ti spinge verso l'oggetto. So that's why when you come off a thought, the first note is recognition, the second one is acknowledgement. E per questo in Italian there are synonyms. Per questo quando uno esce dal pensiero e usa la nota mentale ci sono due fasi. La prima è un prendere atto, diciamo così, e il secondo un riconoscimento. So we say worrying, see? E quindi per questo usiamo due parole, diciamo preoccupazione. The second one is a real acknowledgement. That's what I'm doing. La seconda parola, cioè la seconda ripetizione, è come dire, ecco, sto proprio facendo questo. When the attention is fixed, the noting stops, eh? Quando l'attenzione è fissa, è stabile, allora questa tecnica della nota mentale termina. It may, in a week retreat, it may sometimes happen that way. Questo potrebbe succedere, per esempio, in un ritiro di una settimana. But don't stop it... You know, by the danger is we stop it too quickly and then the mind just wanders. Ma il pericolo è che a volte lo interrompiamo troppo presto e allora la mente comincia di nuovo a divagare. If you're using the noting technique and the word seems to be stopping you from feeling the sensation. Se usate questa tecnica della nota mentale, avete l'impressione che si metta in mezzo, diciamo, quindi non riuscite a percepire direttamente la sensazione. What that is telling the meditator is that this intuitive intelligence is locked into the intellect. Quello che ci dice questa cosa è che questa intelligenza intuitiva è come se fosse bloccata dentro il concetto. And therefore the meditator, as it were, looks through the word to the feeling, or over it, or round it, or whatever way that works for them. Mm, a questo punto quello che il meditante deve fare è attraversare la parola, diciamo, o appunto attraversarlo, o girarla intorno, o andare sotto, sopra, qualunque cosa funzioni per contattare l'oggetto osservato. And eventually the word will recede, you see, to the back. E prima o poi questa parola in qualche modo sfumerà nello sfondo. You can note as quickly as you wish in order to maintain your attention. Potete notare più veloce, cioè quanto velocemente desiderate, purché manteniate l'attenzione. That's up to you. Dipende da voi. So that's one tech. That's just the general indications on how to use the technique. E quindi queste sono delle indicazioni generali su come usare questa tecnica. The other one is to go slow. L'altra tecnica, diciamo, l'altra caratteristica del metodo è quello di andare lentamente. So this is very simple. The slower you go, the more you see. E questa ha una ragione molto semplice: più lentamente si va e più si vede. If you walk through the country or drive through the country, what you see of the country is different, eh? Se fate una camminata in campagna oppure guidate in campagna, ciò che vedete sarà diverso. So if you really want to see the country, you go very slow, eh? Se volete veramente osservare il paesaggio, diciamo, dovete andare molto lentamente. So, by going slow, we slow everything down. The body slows down, the heartbeat slows down, the mental thoughts slow down, everything slows down. E quindi andando lentamente tutto rallenta, rallenta il corpo, rallenta il battito del cuore, rallenta la mente, tutto. And we can see the process of how we create the world. E riusciamo a vedere il processo di come noi creiamo il nostro mondo. And we can see how we create problems for ourselves. E riusciamo anche a vedere come noi creiamo i nostri problemi. So just like the Buddha when he was sitting under the tree. E questo è proprio come il Buddha quando era seduto sotto l'albero. Once he began to investigate the causes of suffering, he found the way out. Una volta che ha cominciato a investigare sulle cause della sofferenza, ha trovato una via d'uscita. And the final final technique is to note intentions. E la terza tecnica, diciamo, è quello di notare le intenzioni. So remember, all our conditioning with our mental states begins with an intention. Vi ricordate che tutti i nostri condizionamenti con dagli stati mentali nascono da un'intenzione. So we have to catch an intention before we are suddenly doing something. Dobbiamo cogliere questa intenzione prima di iniziare a fare qualcosa. And doing something means thinking about something, saying something, or an action. E questo significa iniziare a pensare qualcosa, dire qualcosa o un'azione. So as often as you can, you know, stop. See? Quindi per quanto più possibile cercate di fermarvi. So now When for instance, when you go to the staircase, stop. Per esempio adesso che andate su per le scale, fermatevi. And then intending to go up. E poi intenzione di salire. And off you go too. When you come to the door, stop. Quando arrivate alla porta, vi fermate. Intending to open. Intenzione di aprire. The more you do this during the day, the more you see you have the impression of being here. E più lo fate durante il giorno, più avrete l'impressione di essere qui, essere presenti. So, we talked about, you know, why we meditate. Quindi abbiamo parlato del perché meditiamo. And our reason for meditating is to, the Vipassana, is to investigate the three characteristics of existence. Abbiamo detto che il motivo per cui pratichiamo la Vipassana è per investigare queste tre caratteristiche dell'esistenza. In that process, the heart will purify itself. You don't have to do anything. Durante questo processo, il cuore si purifica da sé. Non dovete fare nulla. And where the body has been made, where the body is uncomfortable or being made sick by the mind, that will naturally get better. E se il corpo ha avuto dei problemi fisici dovuti alla mente, allora anche questi miglioreranno. This happens quite naturally. E questo succede naturalmente. And the technique that the Mahaji taught us was this noting technique to stop this thinking mind thinking. E la tecnica che ci ha insegnato Mahaji è quella di usare la nota mentale proprio per interrompere il flusso dei pensieri. To slow everything down so that we can really see how we create the world. E di rallentare in modo che riusciamo veramente a vedere com'è che creiamo il mondo. And to take control by knowing our intentions. E prendere il controllo, assumere il controllo, notando le nostre intenzioni. And this last technique of stopping and noting our intentions we can take directly into ordinary daily life. E quest'ultima tecnica, questa del fermarci e notare le nostre intenzioni, la possiamo portare direttamente nella nostra vita quotidiana. Sì. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. By your devotion to the practice. Grazie alla vostra devozione alla pratica. And your ultimate aim to become fully liberated. E il vostro obiettivo finale di raggiungere la liberazione. May your sufferings come to an end sooner rather than later. Che possano la vostra sofferenza giungere alla fine prima piuttosto che poi. Sa, sa, sa.